24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Che cos'è? Non ce l'ho mica con Faccio, non ce l'ho mica con Floris, non ce l'ho, ce l'ho col sistema che è marcio. È marcio, completamente marcio. Quando facciamo un'intervista, mettono la coda alla fine, poi montano magari 10 minuti. Io no, io sono un monologhista. Io ho bisogno di, se devo esprimere una cosa come questa, con enorme difficoltà, ho bisogno di tempo. Non la posso dire in 15 secondi, mi dica come va il mondo. E vaffanculo, come va il mondo in 15 secondi. Eccolo lì, l'editoriale di Beppe Grillo in 15 secondi, lui che è un monologhista, come va al mondo? L'avete sentito, se devo dire in 15 secondi, ecco come va. Allora, buongiorno, buongiorno cari italiani, sono le 6:29 minuti, ma come sono sveglio, sono proprio sveglio, sono sveglissimo con le mie 3 ore e mezza in corpo di sonno. Evviva, evviva! Questa è 24 mattino! Siamo pronti! Saluto Miriam Lucchetti in redazione, lei è sveglissima, non al contrario mio. È tornato l'alpino, Peter Bescapè. Eccoci qua. Buongiorno. Sai che ho detto al contrario mio, parlo così, al contrario mio. Ecco, questo fa capire che vuol dire dormire 3 ore e mezza. Bene, bene. Allora, Beppe Grillo Show, che devo fare? È arrivato ieri al Senato piombando di colpo lì. Ha incrociato un paio di giornalisti delle agenzie che l'hanno visto e fanno: ma che è un sosia? No, era Beppe Grillo. Mario Adinolfi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. E anche tu, insomma, un po' in difficoltà ti sento questa mattina. 10 secondi, sveglio da 10 secondi, quindi connetto tutto adesso, piano bene. Piano. Allora ti faccio salutare intanto Silvia Brasca del TG della 7. Buongiorno Silvia, di qualcosa a te di un po' più sveglio, perché qua niente. Silvia Brasca, ecco. Andrà a dormire. Silvia Brasca ha detto: vabbè, sapete che c'è, io torno a dormire, perché con questi due. Allora, ma è vero che c'è la statua di Mazzini, caro Mario? Vabbè, tu sei stato al Parlamento, non alla Camera, non al Senato. C'è la statua di Mazzini, sai che Grillo, incontrando la statua di Mazzini, fa: mamma mia, questo tutti i giorni vede passare Giovanardi, gli verrebbe voglia di buttarsi sotto dalla statua. Meraviglioso. Vabbè. Comunque c'è, è vero che c'è la statua anche di Mazzini. Allora, Silvia Brasca, non lo so, la recuperiamo adesso. Allora, caro Marione, se eccola qua, l'abbiamo recuperata. Silvia, dove sei? Eccoci, sono qua. Pensavo fossi tornata a dormire, insomma, visto che Mario. Una lodola. Vabbè, allora, che ne pensate di questa sortita di Grillo? Che fa Mario Adinolfi? È in difficoltà e quindi deve andare al Senato a ricompattare i suoi? Ma un po' di difficoltà c'è, ma secondo me non. Non si misura sul passo dell'oggi quello che fa Grillo. Sicuramente, per esempio, il risultato trentino lo punisce, insomma, dice che il 5 Stelle, almeno in questa fase, non è attrattivo di consensi, quindi sicuramente c'è un motivo di tornare a dare colpi di frusta. Sì. Il 5 Stelle ha fatto poco, lo ammette lui stesso, insomma, e questo è. È tornato a dare una strigliata ai suoi, Silvia Brasca, hai visto? Cioè, tra le battute, vabbè, le battute solite, il mondo in 15 secondi, ce l'ha con la TV, ce l'ha col mondo, mamma mia, Beppe Grillo, ce l'ha sempre col mondo, che dobbiamo farci? È anche rispettoso, secondo me. Ah, sì. Nei confronti di? Della persona, appunto, del Presidente della Repubblica, ma in quanto comunque un signore con una certa età, ecco, e io lo trovo sempre rispettoso, non riesco a uscire, cioè esco dalla politica, sono forti umani normali, e trovo che abbia dei toni insopportabili. Oh, eccolo qua. E non riesco a toglierlo da quelli che siamo al Parlamento, ecco. È un, come si si dice Mantovano è un bagolone da bar. Ecco. Cos'è un bagolone da bar? Cosa c'è? No, ma sentiamolo allora contro il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, perché effettivamente chi gli ha detto? Un anziano? Sentite un po'. Cioè, io ci ho parlato due volte con questo signore qua. Ho parlato ed è una persona di quasi 90 anni, furba, molto scaltra, che ha 60 anni in politica e di una certa parte della politica. E quindi una persona a una certa età, 90 anni, o è saggia, ma se è furba io non voglio. Poi non ha più senso che noi andiamo a parlare, ci ha ricevuto perché ci ha dovuto ricevere, perché siamo una forza bene o male importante del paese. Insomma, ha detto è così scandaloso Adinolfi. Cioè, sì, irrispettoso un po', però insomma anche quest'aura del capo dello Stato che non si può... A me non dispiace quello che dice Grillo, devo dire la verità. Credo che non ci sia bisogno in questo paese di una forza un po' iconoclasta, diciamo così, anche nei confronti di figure come quella del capo dello Stato, sicuramente autorevolissima, sicuramente da rispettare, ma non privo, diciamo, in questo momento di qualcosa di cui discutere. Questo non è un presidente qualsiasi, non è Leone che non vedevi, non lo sentivi finché non è arrivata Camilla Cederma. Questo è un presidente che ha talmente innovato il ruolo del Presidente della Repubblica che è inevitabile che possa anche attirarsi qualche critica, anche qualche critica pesante. Io ringrazio Dio che ci sia ancora lo spazio per poterlo criticare anche pesantemente. Ma questo sì. Hai capito, cara Silvia Brasca? Ecco. Questo sicuramente, però è un Presidente della Repubblica in un momento, in anni dell'Italia totalmente atipici, anomici. Cioè, parliamo di un Presidente del Consiglio che non questo attuale, quello che per tanti anni, cioè quando c'è Silvio Berlusconi in campo, poi se il Presidente della Repubblica non tiene la barra dritta, siamo qua, oggi si deciderà su un voto palese, non palese, c'è stata una mostruosità per anni che una persona che tenere 3 punti saldi, e se questo è il Presidente della Repubblica, forse è stata anche la nostra salvezza. È stata la salvezza, no? Per carità. Con un Presidente della Repubblica, che ha trattato i magistrati in quel modo, cioè, meno male che c'era Napolitano. Cioè, con il Presidente Consiglio. Ce l'hai con Berlusconi, eccolo là. Alle 6:36 minuti è entrato prepotentemente Silvio Berlusconi, l'abbiamo tenuto fuori 7 minuti, ma non ce l'abbiamo fatta. Non ne posso più, è vero, però ancora girarci intorno qua. Ascolta, nel nostro paese si era dimesso nel 94 e l'avevamo perduto. Hai capito, hai visto. Vabbè, tanto c'è una non ne può più. Mario Adinolfi, Silvia Brasca non ne può più. C'è un ascoltatore che ci scrive: ha ragione Grillo con 3 punti esclamativi. Vabbè, insomma, si vede che ha votato Beppe Grillo. Sentite anche questa, sempre di Beppe Grillo. C'era questa cosa del fascismo, no? Cioè, dice: grazie al Movimento 5 Stelle abbiamo impedito in pratica la rinascita del fascismo. Sentiamo. Perché si stanno ricostituendo partiti fascisti, nazisti, vediamo la Norvegia, vediamo la Grecia, vediamo l'Olanda, vediamo l'Ungheria. Quindi dove non stanno nascendo, vi ripeto, ci tengo a dirvelo, è in Italia. In Italia, dove abbiamo inventato il fascismo, dove abbiamo inventato questa roba mostruosa, qui non sta nascendo nulla perché c'è il Movimento 5 Stelle e dovreste riconoscercelo questo. Ecco, questa è una cosa sulla quale si è dibattuto molto, Maria Adinolfi. Non è la prima volta che dice, non so, grazie al Movimento. Questo ha perfettamente ragione, questo è veramente il ruolo, diciamo, decisivo del 5 Stelle. Incanalare la rabbia. Se noi guardiamo la mappa europea, mi meraviglio il fatto che Grillo abbia saltato il paese dove la cosa è più clamorosa, la Francia. Cioè, in Francia Marine Le Pen è in questo momento il primo partito del paese e ha ottime possibilità di giocarsi alla presidenza della Repubblica con un Hollande molto screditato alle prossime elezioni per l'Eliseo. Ovviamente Alba Dorada, ovviamente la Norvegia, ovviamente l'Austria, ovviamente Cioè, ci sono in Europa una mappatura delle, sì, ma questo è per il Movimento 5 Stelle, cioè il Movimento ma 5 certo. Stelle è un argine a tutto questo, è questo il punto. Voi parliate con, per esempio, i giovani o sentiate quelli che sono arrabbiatissimi, insomma, se chiedete poi alla fine, dopo aver sentito tutta la filippica genericamente antisistema dei fregnacciari, diciamo così, under 30, alla fine poi gli chiedi, sì, ma tu hai votato, l'alternativa è no o 5 Stelle. Non dice che ho votato Forza Nuova, grazie a Dio. Sì, no, no? Molti incanalano questa rabbia. Però Silvia, guarda, adesso ti do questa considerazione, anche un altro ascoltatore ci scrive, ha detto anche altro Beppe Grillo, fai sentire tutta l'intervista. Ecco, questo è tipico del Movimento 5 Stelle. Cioè, adesso dovremmo andare in onda 40 minuti, quindi ho svegliato Mario Di Nolfi e Silvia Brasca inutilmente. Dovevo far sentire, o fai sentire tutta l'intervista, oppure sei un giornalista, che cosa faccio? Tagliuzzo, faccio come dice Beppe Grillo, no? Faccio sentire quello che mi conviene e quello che non conviene. Manipolatore. Cioè, c'è anche il diritto di poter scegliere alcune parti dell'intervista o possiamo ascoltarla tutta in rigoroso silenzio, inchinandosi come davanti a Kim Jong-il, oppure possiamo scegliere anche dei brani che reputiamo, reputo più interessanti, non lo so. Comunque, cara Silvia, un po' questo, su questo sono d'accordo anch'io, ha ragione Maria Di Nolfi, ha ragione in questo Beppe Grillo. Cioè, è vero, poi quando sono stati studiati i flussi elettorali, poi dopo lui ha anche pescato da altre parti. Sì, però ha davvero incanalato. Il candidato della Lega è andato a finire lì e quindi, no, è vero. Sul metodo del partito, sul metodo del movimento che ha fatto, ecco, anche lui si è ispirato. A che cosa? Sulla democrazia interna dei 5 Stelle. Sei ispirato al fascismo, stai dicendo? No, ma no, per carità. Ti massacrano, poi su Twitter. Era è un movimento da studiare come chiamiamo democrazia interna, come esempio fulgido di democrazia interna. Ieri quando gli hanno chiesto due che danno, insomma, sì, gli hanno chiesto, ma chi è che decide dell'impeachment? Lui si è girato al giornalista e ha detto, vuoi saperlo, essere contento, decido io. Però insomma, gioca anche su questo ruolo un po' così. Vabbè. Cara Silvia Brasca, caro Mario Di Nolfi, qui c'è da capire allora che succede a Berlusconi, che succede a Renzi. Oh, intanto Mario, tu che nel PD sei stato un pochettino, credi che stiano facendo delle truffone, come scrivono oggi il giornale Libero, sulla questione delle tessere, tesseramenti falsi, gente che spunta, gente che... Questo è un grande classico di ogni congresso, insomma, nell'anno non congressuale i tesseramenti sono la metà di quello che c'è nell'anno congressuale. Tendo a considerarlo fisiologico, ovviamente dà fastidio, diciamo così, esteticamente, guardandosi una cosa del genere. Non si rimane esaltati. Ma qual è il limite che si può fare? Cioè, nel senso, il limite per il quale si può capire che ci possono essere dei brogli, perché ci siano più tessere è anche abbastanza normale. Appunto, uno spinge le persone a tesserarsi in modo da votare nelle sezioni. Ma ci sono moltiplicazioni in alcuni casi del 300%, del 400%. Io ho fatto il candidato alle primarie fondative del 2007, che infatti erano scontatissime, doveva vincere Veltroni, però ricordo che in alcune realtà mi viene in mente Napoli, va? Così uno a caso. Ecco, così lo fa per ricucire i rapporti con gli amici napoletani. Mario Di Nolfi, fatevi un giro e fatevi raccontare cosa sono state le primarie del Napoli. Ma che c'hai con Napoli, Mario? Che c'hai con Napoli? Ma niente, vorrei, come dire, spingere a una riflessione gli amici napoletani, che poi tu sai, sono collegati. Una riflessione generale che si collega anche al fatto dell'ascoltatore che ti scrive. Ieri io stavo ospite al Del Debbio per tre ore, ma è finita in televisione. Ma tu devi venire da me lunedì sera, adesso lo porto a 7 gol. L'ho preso le donne. Ma sto pubblico, ma perché siete tutti così rincoglioniti? Cioè, è testuale proprio, quello che sta scritto, no? Di fai vedere 40 minuti di Grillo. Cioè, tu al pubblico non gli devi dar retta, lo devi rieducare. Rieducare. E il bello è quando ho detto stavolta si è scatenato l'applauso. Allora a quel punto ho detto, vabbè, pieno Moretti, una persona favolosa. È così, Mario Di Nolfi è così. Pubblico di merda! Ecco. Pubblico di merda! Pubblico di merda! Pubblico di merda! Pubblico di merda! Va Vabbè. Cara Silvia Brasca, non ho capito però che cosa c'hai con Napoli, Mario. Ho dato un esempio, però sicuramente se vi studiate le primarie napoletane del PD, allora ci sono i cattivi, questo voglio dire, i cattivi sicuramente sono quelli che ideano il sistema per cui fanno più tessere, fanno più... Però proprio ci sono, per esempio a Napoli, decine di migliaia di persone vanno a farsi file farlocche per votare farloccamente. Allora, dov'è la responsabilità? Forse anche in un tessuto dove magari se ti danno 5 euro vai a fare anche la fila per votare X o Y. Questo è un problema, cioè il clientelismo napoletano meridionale ha molto spesso creato numeri, guardatevi i numeri delle primarie, sballati rispetto alla realtà. Cara Silvia Brasca, eccolo lì, a Voghera non succede. Cara Silvia Brasca, fai un bel servizio per TG della 7, prendi Maria Di Nolfi, andate a braccetto a Napoli, cosa ne pensate di quest'uomo? Fate un giro per Napoli e registra un po', no? Si potrebbe fare. Ha ragione sui tesseramenti in certe regioni italiane del PD, cioè, ci sarebbe molto da dire, c'è da dire, è stato detto, insomma, ma, e questa volta mi sembra che, non so se sia più dura questa tornata o altre, ma comunque hai ragione tu, poi esiste una cosa fisiologica, ma poi insomma la febbre sale. La febbre sale, le tessere anche salgono, io vedo adesso, guarda qua il TG della 7, guarda qua che scorre Beppe Grillo, vabbè, insomma è l'uomo che ha preso, come dire, ha preso la scena per un giorno, in un giorno in cui si parla Silvio Berlusconi, non Silvio Berlusconi, si candida, non si candida, le sorelle, le figlie, Marina, Barbara, Alfano che cuce, Letta che dice Alfano, Angelino, adesso devi deciderti, una noia mortale la politica italiana, una noia mortale. Andiamo a ravvivare un po' con la segreteria, dopo il traffico, la segreteria amata da Mario Adinolfi, i nostri ascoltatori, il nostro pubblico, la nostra voce tra poco. 24 mattino. Ciao Milan, senti, io ho pensato con i miei 14 euro vorrei comprare una museruola per Brunetta, ne vorrei comprare una anche per la Santa anche, ma non mi bastano i soldi, magari vedi se c'è qualcuno che può collaborare. Guardi, sono un anziano di 93 anni, ho una casa decente, se Berlusconi vuole fare finalmente un atto buono, vuole venire a casa mia a aiutarmi, vivo solo, viene, facciamo assieme le pulizie, mangiamo assieme, fa una cosa che farebbe parlare il mondo. Ascolti me, venga da me, gli altri che li hanno invitati sono già tutti organizzati. Alessandro, bene, sono contento che è tornato a tornare il bambino viziato a Renzi. Per fortuna che è tornato lui, perché anche ieri, scusa, ho scoperto l'acqua calda. Vuole fare la riforma della giustizia, mamma mia, non ce ne eravamo accorti che eravamo in questa situazione con la giustizia. Per fortuna che ci ha ricordato. E poi non vuole più guai a nominare un governo delle larghe intese. Ma si è reso conto che nessuno lo vuole, ma è un'esigenza del paese questa cosa. Credo che Renzi veramente dovrebbe smetterla di fare continuamente il bambino viziato, continuamente radical chic, ci ha rotto le scatole. Ma comunque la Marina Berlusconi non ha proprio il fisico di roll, come si dice, fa ridere. Ma che siamo matti, tutti a destra sono rifatti, liftar padre e dalla figlia lo si vede a mille miglia, con la pelle che è avanzata una valigia c'è scappata. Beh, questa Mario, questa è buona, questa è l'ultima. Lo stornellatore romano. È lo stornellatore romano, di la verità. Ti ha fatto per un attimo riprendere, cambiare idea. O il 93enne che voleva Berlusconi a casa sua, fare una cosa. Anche quello non era male. La segreteria più adesso selezioni meglio. Bravo. Lo fai apposta per farvi ricredere. Esatto. È eccezionale il pubblico di Milan. Lo stiamo rieducando piano piano, non dicono solo premiati. Ribellatevi, voi, cari ascoltatori, lo dico sempre, ribellatevi, dite cosa pensate di Mario Adinolfi, poi quando lo invitiamo lo facciamo risentire. Ovviamente uno mi chiede, ma basta parlare male di Napoli, insomma, non, vabbè, ma Mario è così, è così. Chissà quando c'è Juve-Napoli, c'è già stato, no, Juve-Napoli, quando c'è Juve-Napoli? Ci sarà, ci sarà, ci sarà. Il risultato è già scritto, per cui inutile pure ci sia, però insomma va bene. Vabbè. Va bene, allora, cara Silvia Brasca, sai cosa ha detto il vescovo di Verona, Verona credo, sì, agli agricoltori di Verona, Monsignor Zenti, l'omelia antitasse del vescovo, non pagate se non ce la fate, no beh, le tasse si pagano secondo le proprie possibilità, questo dice la Costituzione, se un'azienda deve chiudere per pagare le tasse è giusto che non le paghi e le istituzioni vi devono ascoltare. E guarda che però ha messo il dito in una piaga che c'è, hai sentito anche tu di imprenditori. Altro che ma vabbè, anche l'ultima sentenza, cioè c'è l'ultima, ma l'evasione di necessità, sì, per carità, non è un problema. E che ha fatto di sbagliato? Che ha fatto di sbagliato? Cioè... No, io quando a me la cosa non pagate le tasse è una cosa che sempre mi, insomma, alzo la guardia, ma non avendo ancora letto questa cosa, per carità, no, a tutti. L'ha detto, no, non lo so, riflessione, cioè, importante, ecco, una riflessione importante su questo, su questo, sì, no, perché ci sono tasse che si pagano, che ne pensi, Mario? Ha detto bene. Io sono un clericale, quindi parli con uno che ha magari qualche problema con Dio, ma adora i preti, quindi io quello che dice il vescovo a priori dico sempre va bene. Che razza di commento è? Cioè... non a caso si chiamano gregge, no? Siamo un gregge, siamo un gregge. Io sono acritico, quando il vescovo parla, per me, insomma, dal vescovo di Roma in giù, io obbedisco. Cioè, dal vescovo Bergoglio in giù. Io sono palesemente clericale. Se mi chiedi sulla fede ho dei problemi, però se mi chiedi in che credo, chiesa cattolica apostolica romana. Ma infatti pensavo giustamente alle 6.52 di intavolare con te un discorso sulla fede. Perché sarebbe divertente. Alle 6.52 dico, caro Mario, preferisci tornare un attimo a dormire che tra un minuto abbiamo finito, oppure intavoliamo un discorso sulla fede? Lo ricordi, quando la chiesa dice cosa, dagli sempre porretta, perché insomma si sa. Dovrai andare al miracolo di San Gennaro. Portiamo Mario Adinolfi a Napoli il giorno del miracolo di San Gennaro. Facciamo questa iniziativa. Ma che bellissimo! Il miracolo di San Gennaro è una cosa meravigliosa. Insomma. Ma adesso io, Mario, ti faccio questa domanda seria: ma tu adesso, se prendi il treno e vai a Napoli, cioè non ti succede niente, la gente non ti dice niente. Ma guarda, che essendo io Adinolfi è un cognome campano, la mia famiglia è campana, quindi io conosco bene la, diciamo, di ospitalità e affetto di cui sono capaci i partenopei, è un luogo meraviglioso. Il problema è proprio perché è così meraviglioso, è stato così rovinato, che bisogna discutere tanto sul perché. E a me non piacciono i perché che dicono sempre è colpa della politica, è colpa di 10 cattivoni, 20 cattivoni, 100 cattivoni. Tendenzialmente, quando succede, è colpa le popolazioni hanno la responsabilità. Questo è il tentativo che io faccio. Le popolazioni, che non si limiti a dire la casta, cattiva la casta. Le popolazioni. Va bene, io vi devo salutare, cara Silvia Brasca. Avete mica intenzione di riprendere i Balotelli? Ci fate questa cortesia? No. Ve lo riprendete, ve lo diamo con sconto, ve lo diamo a voi interista, ve lo rimettiamo lì, insomma, vi paghiamo anche se ti no, questo Balotelli doveva rimanere da noi, doveva fidarsi di noi. Sono d'accordo con te, sono d'accordissimo, doveva rimanere all'Inter, sì, d'accordissimo, vabbè, se ve lo volete riprendere ve lo diamo con sconto, ve lo diamo dietro anche con qualche macchina ammaccata, ieri ne è ammaccata un'altra, insomma, vabbè, ma sono cose che succedono, questa chi non succede. Grazie, vi saluto, Silvia Brasca, del TG della 7, Mario Adinolfi, e viva Napoli, e viva il nostro pubblico, andiamo al giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta.

legato alla vicenda della morte di Kadir Nurman. E uno dice: ma di che stai raccontando? Di che stai parlando? Kadir Nurman è morto. Sapete chi è Kadir Nurman, o meglio, chi era Kadir Nurman, caro alpino Peter Bescapè? È l'inventore del kebab. L'inventore del kebab, c'è questa grande foto sul Libero del kebab, è morto l'inventore del kebab, cibo simbolo del multiculturalismo. Lo sapevate, Kadir Nurman. Vabbè, siamo al momento del premio più ambito di Radio 24 alla rassegna stampa, vale a dire la carta costa, l'articolo più inutile scovato oggi sui giornali. Vince oggi la stampa con Nadia Ferrigo, pagina 25, un'intera pagina. Io non ci volevo credere, oggi è stata una dura selezione perché ce n'erano tanti di articoli che potevano vincere, ma questa... Mi autoscatto, dunque sono. Un'intera pagina per la moda e chi non passa il tempo a farsi gli autoscatti, moda dei VIP, moda della gente comune, in tutto il mondo dilaga il fenomeno del selfie. Sapete cos'è il selfie? È che uno incontra, non so, il Papa, è successo, e si mettono in tre, Papa, aspetta, Francesco, fermo, clic! E si fanno la foto, oppure la Merkel, clic, la foto di Obama, clic, e si fanno la foto, e si fanno l'autoscatto, e poi lo postano dappertutto. Ma chi se ne fotte, mi verrebbe da dire. Una pagina intera sulla stampa per raccontare questa moda, il selfie. Adesso ci facciamo un selfie, io, l'alpino e Miriam Lucchetti, poi lo mettiamo su Facebook. Tra poco il selfie di 24 mattino, sul sito di Facebook, guardatelo. Intanto il giornale radio. Sono le 8 e 17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari italiani, oggi vogliamo parlare di scuola, torniamo su questo tema come promesso, e chiunque abbia dei figli in età scolastica, magari li state accompagnando in questo momento in macchina a scuola, chiunque li abbia si sarà sentito una volta dire, almeno una volta: potete mica contribuire con dei soldi, magari 20 euro, 10 euro, 25 euro, per carità un contributo volontario, ma d'altronde abbiamo da comprare la lavagna, il materiale scolastico, non c'è la carta igienica, manca il sapone, manca la carta, insomma materiale che nella scuola pubblica, la scuola per la quale pagando le tasse tutto dovrebbe essere a disposizione, non tutto è a disposizione. Nel mondo ideale tutto è a disposizione, nel mondo ideale per la verità tutti gli italiani pagano anche le tasse. La realtà invece è un'altra cosa. E allora spesso le scuole che fanno? Servono banchi nuovi? Ecco pronta l'IKEA, è successo in passato, a fornire l'arredo. Serve la carta igienica? Ecco la Scottex che arriva. E provvede con i rotoli di carta igienica. L'ultima notizia, oggi il giornale se ne occupa un'intera pagina: aumentano sempre più le iniziative delle catene di distribuzione dei bollini della spesa, cioè fai la spesa in un supermercato, ti danno il bollino classico, ma questo bollino non è che dà diritto a un premio, che ne so, una batteria di pentole, ma ti dà diritto a comprare del materiale scolastico. E l'ultima che si è inserita in questo, scrive il giornale, la Coop. E cosa fa? Così i bambini dicono: mamma vai a fare la spesa lì, o papà vai a fare la spesa, in modo che almeno ci danno i bollini e posso comprare il materiale scolastico. Allora, tutto ciò è scandaloso oppure non ci vedete nulla di male? Cioè il ruolo dei privati nella scuola pubblica è un qualcosa che vi scandalizza? Oppure no? Ne parliamo anche con i vostri contributi, come sempre, all'800240024. Ne parliamo con intanto due commentatori. Torna con noi Andrea Ichino, che saluto, il professor Ichino. Buongiorno e ben ritrovato, professore. Buongiorno a voi, grazie. Insegna economia alla European University Institute di Firenze. Voglio salutare anche Roberto Ippolito. Buongiorno Ippolito e ben ritrovato. Buongiorno. Roberto Ippolito, tra l'altro, è uscito di recente con un libro, Chiare lettere, dal titolo emblematico Ignoranti, l'Italia che non sa, l'Italia che non va, dedicato proprio al mondo della scuola. Allora, con voi vogliamo approfondire questa tematica a partire anche da una storia, e per questo voglio salutare il dirigente scolastico del liceo classico Mamiani di Roma, Tiziana Sallusti. Buongiorno e benvenuto, professoressa. Grazie, eccoci qua. Buongiorno. Allora, voi avete fatto questo tipo di discorso, cioè servivano dei computer a un certo punto nella vostra... Esatto. E che avete fatto? Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di rendere partecipe l'utenza e tutti coloro che avrebbero potuto aiutarci in questa nostra ricerca di macchine informatiche, insomma. Quindi la nostra iniziativa si colloca in una diversa posizione rispetto a questa questione a cui lei accennava, così discussa e controversa, delle sponsorizzazioni. Perché noi abbiamo chiesto semplicemente a tutti coloro che, insomma, che potevano darci una mano, di inviare non delle macchine nuove, ma delle macchine usate, in buono stato ovviamente, che potessero aiutarci ad informatizzare tutte le nostre 45 aule. E questo è arrivato, cioè un'azienda privata vi ha dato del materiale, più di una. Molti privati, genitori, ex mamianini, cioè persone che hanno frequentato il nostro liceo con piacere, che quindi hanno voluto un po' contribuire in questo senso. Questo è interessante, sai che anche il ministro Carrozza ha detto bisognerebbe fare il modello all'americana, dove gli ex studenti, quelli che ovviamente hanno magari le disponibilità, quelli che sono legati alla scuola nella quale hanno studiato, dovrebbero mettersi una mano sul cuore e dare un contributo. Che male c'è in questo? Però sa, lei dice ni. Perché? Se questo vuole essere un, diciamo, sollevare il pubblico da quelli che sono i suoi doveri, no. Se questo rientra in un, diciamo, in un'idea che è quella di collaborare tutti al benessere della scuola pubblica, sì. Quindi lei dice giustamente dice ni, c'è un pro e un contro. La questione però è chiaro, in un mondo ideale lei dice tutti pagano le tasse, la scuola è pubblica, e la scuola pubblica vuol dire che se io pago le tasse trovo tutto a disposizione. Però voi vi siete trovati a dover chiedere una mano a chi poteva darvela. Esatto, però in cambio non abbiamo promesso nulla, né pubblicità, e soltanto una lettera di ringraziamento, cioè questo tengo a precisarlo, non abbiamo messo etichette, non abbiamo ringraziato, come stiamo ancora facendo, perché i donatori sono stati tantissimi, però non abbiamo promesso in cambio nessuna forma di pubblicità, anche se la norma lo prevede, perché ci sono decreti per questo, però la nostra scelta avete è fatto stata questa un'altra. Scelta. Che ne pensa di queste catene di ipermercati? L'ultima è la Coop, ma ce ne sono tante, la Conad, l'Iper, Despar, che appunto permettono, facendo la spesa, di acquistare dei bollini, di vincere dei bollini premio da utilizzare però per materiale scolastico. Allora, anche qui è un nel senso che tutto ciò che è sponsorizzazione è molto pericoloso, a nostro avviso. Il nostro liceo si è posto sempre in una posizione molto netta rispetto a questo. Certo, sempre meglio di acquistare pentole che non servono a niente in casa, può essere. Però io ritengo che lo Stato debba fare la sua parte, soprattutto il legislatore. Lo Stato deve fare la sua parte. Legiferando in modo da non togliere fondi alla scuola pubblica. Allora, no, ma è chiaro, ovviamente i sindacati subito hanno tuonato, caro professore Andrea Ichino. L'ultima volta abbiamo fatto anche un faccia a faccia sulla scuola proprio con un sindacalista. Oggi le metto Roberto Ippolito, che è agguerrito su questo tema, ma forse non come il sindacalista Pantaleo. Però professor Ichino, è davvero scandaloso che i privati entrino in qualche modo con anche dei contributi nella scuola pubblica? Ma io francamente penso di no, purché non ci siano vincoli che vanno ovviamente rifiutati. Innanzitutto, anche nel mondo ideale non è detto che l'intero finanziamento della scuola debba venire dalla fiscalità generale. C'è molti argomenti vengono proposti dagli economisti e non solo, per sostenere l'ipotesi che parte del finanziamento dei servizi pubblici debba arrivare servizio per servizio, ovvero sia l'università sia pagata dagli utenti dell'università, la scuola pagata dagli utenti della scuola, la sanità, eccetera, eccetera. Non sempre va bene, ci sono pro e contro, ma non è detto che tutto debba passare per il calderone della fiscalità generale, e questo anche per un motivo molto semplice. Forse gli italiani sarebbero più diciamo propensi e felici di contribuire alla spesa pubblica se potessero contribuire direttamente per i servizi di cui fanno uso e non indirettamente in un calderone che è la fiscalità generale, da cui poi non si capisce bene come e dove vada. Questo però, professore, a patto di abbassare le tasse, perché sennò uno dice abbassiamo le tasse, ma invece l'idea è che io do una parte di queste di questo diciamo contributo, ma lo do proprio per la scuola, Ora, detto questo, i contributi privati alla scuola devono arrivare anche all'università, devono arrivare senza vincoli attaccati, cioè non può essere che la scuola si impegna a non insegnare certe cose o insegnarne altre per ricevere dei soldi. Ma questo succede in moltissimi paesi al mondo, può essere fatto senza problemi, moltissime cattedre universitarie negli Stati Uniti sono finanziate da persone che mettono i fondi, l'endowment, l'ammontare di denaro che in futuro finanzierà per un lungo periodo lo stipendio e le spese di quella cattedra. Questo potrebbe succedere anche nelle scuole, per esempio per aule informatiche, per palestre, per altre strutture scolastiche, e io francamente faccio fatica a capire dove sia il problema. Dove sia il problema, soprattutto laddove, laddove lo Stato, e forse poi lo approfondiremo, non arriva, perché come ci aveva spiegato lei l'altra volta già dati alla mano, non è che lo Stato investa poco per investimento pro capite per studente, ma investe più che altro male. Però professore Chino, mi faccia sentire anche il parere di Roberto Ippolito, che come detto ha scritto questo libro Ignoranti, che è uno spaccato, io ho letto, molto a tratti esilarante, a tratti agrodolce, no, posso dire, Ippolito, perché ci sono da, c'è da ridere in alcuni tratti, ma ci sarebbe da piangere invece. Purtroppo sì, quella leggerezza ci serve a capire quanto è inquietante lo spaccato della scuola, il mondo in cui viviamo, lo spaccato della scuola e dell'intero paese. È un paese meraviglioso per generosità e senso del volontariato, come si sta dicendo ora, ma lo Stato è lo Stato, la scuola pubblica è la scuola pubblica, la gratuità della scuola dell'obbligo è prevista dalla Costituzione, il diritto allo studio per l'università è previsto dalla Costituzione, non possiamo risolvere i nostri problemi con i regali di qualche genitore magari che ha la possibilità di farlo il regalo, o con la... l'interesse, che chiaramente è un interesse commerciale di una catena di supermercati o di un'impresa di qualunque. Però il diritto allo studio, questo certamente. Però lei non crede, Ippolito, che, come dice il professore Chino, non, laddove chiaramente c'è un interesse da parte della catena commerciale di fare un'iniziativa perché il buon marchio della catena faccia diciamo circoli, no? Però come dire, uno scambio do des, va bene, noi facciamo questo per un nostro interesse commerciale, però risolviamo un problema laddove questo problema... Non si risolve il problema, si accentua il problema. Si accentua, perché facciamo un esempio molto pratico, molto preciso. La dirigente scolastica che state ascoltando è dell'istituto Mamiani, un istituto nel quartiere Prati di Roma, dove il livello medio economico è più alto anche rispetto ad altre, non è il più alto in assoluto di Roma, ma sicuramente è medio alto anche rispetto ad altre zone. E nelle zone dove non ci sono genitori che hanno soldi, dove non ci sono genitori e insegnanti che hanno buone relazioni con imprese disponibili a regalare, stiamo accentuando le disuguaglianze, stiamo accentuando le differenze. Questo dei regali è un sistema che accentua le disuguaglianze che già nella scuola sono fortissime. Questo è un problema molto ben posto. Professore Chino, che risponde a quello che dice Ippolito? Rispondo che ci sono infiniti modi per ovviare a questo problema. Nella proposta che abbiamo fatto insieme a Guido Tabellini nel libro Liberiamo la scuola, l'idea è molto semplicemente che i contributi dati dalle famiglie del Mamiani vengono tassati a favore delle scuole di altri quartieri che non hanno la stessa possibilità di contribuzione. Ma soprattutto la cosa assurda del discorso di Ippolito è che comunque i ricchi pagano più tasse dei poveri attraverso la fiscalità generale. Che problema c'è a farglieli pagare di più direttamente per il servizio che utilizzano? Cioè anche nella fiscalità generale chi paga l'IRPEF è una tassa progressiva, quindi le persone abbienti pagano di più e in questo modo contribuiscono di più al finanziamento della scuola pubblica, soltanto che in questo modo glielo facciamo pagare direttamente in relazione a un servizio, tassandolo e redistribuendolo in modo che le scuole meno dotate possano avere accesso. Possono soffrire a questo. Professoressa Sallusti, lei si è posta questo problema, o meglio, vi siete posti da questo punto di vista a dire noi siamo in un quartiere magari più agiato rispetto ad altri, quindi siamo fortunati, abbiamo fatto questo appello e la gente ha risposto in qualche modo. Due cose. E rispetto a quello che ha detto il professor Ichino, io sono d'accordo che diciamo pubblico e privato vanno sempre più intersecandosi, però, e volevo rispondere anche che il nostro liceo, come tutti i licei di Roma, tutte le scuole superiori, ma anche i medi ed elementari, percepisce dallo Stato lo medesimo contributo in base al numero degli studenti e non al luogo in cui è ubicato. Quindi il liceo di Prati ha lo stesso contributo di un liceo di un'altra. Questo sì, però se lei fa un appello, se lei giustamente fa un appello al quartiere Prati, dove magari vivono famiglie più agiate rispetto ad altri quartieri, riceverà una risposta. Ma la risposta è la stessa che ho ricevuto quando ho fatto lo stesso appello in un'altra scuola che dirigevo in precedenza. Cioè, voglio dire, a noi non hanno risposto solo i genitori di Prati, le ditte, le aziende, faccio un esempio, l'associazione 50 e più, è un'associazione che non è in Prati, fra l'altro. Cioè, tante persone anche dal nord Italia, dal sud Italia hanno mandato computer. Voglio dire, non è stata una richiesta al genitore che abita in un quartiere bene, della Roma bene. Questo tendo a precisare. Questa è una giusta precisazione, però lei non ha accettato queste cose con, come dire, con scandalo, dire guardate cosa mi tocca fare, cioè lo Stato non arriva, lo Stato non provvede, no certo, però lo Stato non provvede, guardate che mi tocca fare, andare a recuperare. È stata una provocazione, quello che voleva essere. Però una provocazione a fine di un risultato che è arrivato. Quando abbiamo lanciato questa provocazione non eravamo sicuri poi dei risultati, che sono stati buonissimi e ne siamo contenti, però... diciamo, lei dice contenti di avere risolto un problema oggettivo e pratico, pragmatismo si chiama, per i nostri studenti, esatto, però il tema di fondo rimane. Il tema rimane. Di fondo del dottor Ippolito è chiaro. E cioè dove è lo Stato nella scuola pubblica? Ripartiamo da qui tra qualche minuto con i nostri ospiti, con le vostre chiamate all'800 24 00 24. Vi scandalizza davvero che i privati possano sopperire alle mancanze del pubblico per favorire la scuola? 24 mattino. Allora, questa puntata l'abbiamo titolata così: la scuola salvata dai privati, scuola pubblica. Vabbè, il titolo è un po' un'esagerazione, ma stiamo discutendo di questo con Tiziana Sallusti, che è dirigente scolastico al Mamiani di Roma, liceo classico, e con Andrea Ichino e Roberto Ippolito. Devo dire che anche su Twitter, per esempio, ci scrive Maurizio Zani: alla scuola materna di mia figlia portiamo biscotti per la merenda, fazzoletti di carta, e all'asilo si vendevano torte, un gran classico. Oppure, ecco Ippolito, prima di tornare e anche ai nostri ascoltatori, Andrea Serri su Twitter ci scrive: l'anno scorso abbiamo fatto di tutto per punti Conad, noi maestri a fare il tifo, è la realtà, né giusta né sbagliata. E cioè è il dato di fatto, Ippolito, è così la situazione, quindi bisogna... Devo dire, sono veramente sconcertato da queste idee, mi dispiace anche per l'ascoltatore, è una realtà, è un dato di fatto. La realtà intanto si può cambiare e oggi sta cambiando in una certa direzione. Sono i dati della Commissione europea: negli ultimi 3 anni siamo il paese d'Europa che ha tagliato di più per la scuola. Non è vero che la crisi non abbia... che la crisi incida, perché ci sono 7-8 paesi in Europa che addirittura hanno aumentato la spesa per l'istruzione, comprendendo che si dovevano fare sacrifici altrove e dirigersi verso l'investimento per l'istruzione di tutto un paese che continua a fare brutta figura. E quei contributi di cui stiamo brutta figura sul piano internazionale con i confronti, gli ultimi sono quelli dell'OCSE, che ci ripetono purtroppo quanto siamo ignoranti, sono costretto a ripetere questa parola. Ma i contributi nella scuola valgono, quei contributi, i regali, i soldi che danno i genitori ogni anno nella scuola dell'obbligo gratuito, ho fatto la stima sui dati del ministero, quindi sono affidabili. Quanto valgono? 1 miliardo di euro l'anno. Cioè un miliardo di contributi dei... Assolutamente sì, 1 miliardo di euro l'anno per una scuola che, essendo scuola dell'obbligo, è gratuita come previsto dalla Costituzione. E ripeto, il fisco a modo suo, giustamente, essendo proporzionale, è giusto, a parte l'evasione, Quindi chiedere altri soldi ai genitori è assolutamente sbagliato, fonte di ulteriore squilibri. E ripeto, da zona a zona c'è una diversità. Giriamole le scuole e andiamo a vedere quante soffrono pesantemente. Allora, prima della risposta di Andrea Ichino, che sui dati avrà sicuramente qualcosa da dire, per esempio a me, vabbè, ma lo diciamo tra poco, la questione dell'accisa che hanno aumentato sugli alcolici per finanziare la scuola, ecco, questa a me scandalizza forse anche di più. Fatemi sentire però due ascoltatori. Luca da Udine. Luca, buongiorno. Buongiorno dottor Milan, a lei e ai suoi ospiti. Io intervenivo perché sono proprio nel periodo iniziale della scuola, ho due bambine, una di 3 anni, scuola dell'infanzia, e una di 7 alla primaria, nella prima scuola, diciamo. Sì. C'è stato richiesto un contributo, per fortuna quest'anno unico per nucleo familiare, di 15 euro, che se vogliamo è una stupidaggine nel marasma, diciamo, delle spese, però questo contributo andrà per coprire le spese della DSL, dei costi di connessione a DSL e del tecnico informatico come primi punti, poi c'è il costo fotocopia e altri. Vabbè, un gran classico, contributo volontario, no? Quindi chi contributo volontario, ma quello che ci hanno detto è che poi in realtà le singole scuole non ci avrebbero richiesto il solito elenco di inizio anno di materiale da portare per la gestione della classe, quindi la smedicata. E lei come ha reagito? Cioè, lei lo dà questo contributo pubblico, questo contributo volontario? Alla fine lo daremo, però la proposta che è stata cassata è perché io devo dare in un istituto comprensivo un contributo che andrà in altre scuole al 90%, perché le mie figlie non hanno né la DSL nelle scuole dove ci sono e nei computer sono ancora arrivati. Sì. E allora perché non fare una cosa proporzionale, oppure pardon, sono un po' emozionato, mi scappano le parole, nel senso attuare quel federalismo fiscale di cui si parla tanto ma alla fine non si fa, ovvero 15 euro, 10 euro sulla singola scuola e 5 euro in cassa generale per eventualmente le mancanze delle altre scuole. Però lei non contesta, mi sembra che non, al di là della proposta che le fa, non contesta l'idea che ci possa essere un contributo pubblico. In teoria nella scuola dovrebbe essere, no? L'ha detto anche il ministro Carrozza, tutto cablato, tutto, le scuole digitali, eccetera. Io in realtà lo contesto perché siamo sempre alla solita minestra, ovvero è meglio tassare piuttosto che tagliare le spese. Eccolo qui. Aspetti, a posto il tema, Luca, se no non do spazio neanche agli altri ascoltatori. Lorenzo dalla provincia di Modena, grazie intanto Luca da Udine. Lorenzo, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Dice. Sono il presidente di un comitato genitori di una scuola della provincia di Modena, appunto. E noi abbiamo partecipato alla raccolta dei bollini dei vari supermercati con il quale abbiamo interessante. Io ho un eco tremendo. Comunque è interessante. Dica che cosa avete comprato con questi bollini. Con questi bollini sono stati donati alla scuola un computer, un paio di computer portatili piuttosto che una lavagna LIM. Ma non solo, noi come comitato genitori facciamo le nostre iniziative, quindi le classiche vendite torta alla materna, le iniziative con i banchetti sulle feste del territorio. Dei privati, in particolare un partito politico ha devolve una quota del ricavato della sua festa alla scuola. E con questi vengono finanziati, diciamo, dei progetti curricolari, ma extra i progetti di prima scelta, quelli che vengono chiamati, quindi ad esempio la madrelingua inglese. Sì. Io pongo l'aspetto su un'altra cosa, cioè io non vedo questa cosa come qualcosa di extraterrestre, i privati possono contribuire nella scuola, anche perché questi soldi non sono stati firmati da nessuno. I genitori sanno che con la raccolta dei bollini è stato preso questo, ma è che una problema pone? Del marchio. Che problema pone? Io pongo un problema di questo tipo, visto che il nostro istituto comprensivo, voi sapete cosa costano i libri di testo alla secondaria? Certo che lo sapete. Spendono almeno 250 euro all'anno e questa è scuola dell'obbligo. Ci hanno chiesto, ad esempio, le maestre e le professoresse quest'anno di fare una raccolta di libri usati per quei bambini che non riescono a permettersi di comprare. Lei pone un altro accento su un altro tema molto, molto interessante. La ringrazio, Lorenzo. Professore Ichino, anch'io non vedevo nel racconto di una scuola vissuta così anche coi bollini niente di scandaloso. Però, insomma, Ippolito dice: no, è sbagliato. Si creano differenze, si creano disparità, eccetera. Io trovo scandaloso scandaloso la vicenda per esempio di finanziare con l'accisa sugli alcolici, come è stato nell'ultima legge, parte dei contributi che devono andare alla scuola pubblica, perché insomma è il solito metodo, no? Tassare per cercare di finanziare la scuola. Il suo parere? Innanzitutto Ippolito dice che la scuola è gratuita e quindi è assurdo che ci siano contributi privati, però un punto è gratuita per chi, per i poveri, ma nulla vieta che i ricchi paghino di più per la scuola, tant'è vero che lo fanno attraverso la fiscalità generale, perché il concetto è che la IRPEF è un'imposta progressiva, quindi per ogni euro speso dallo Stato nella scuola a quell'euro contribuiscono di più le famiglie ricche che non le famiglie povere. Quindi già è così, la fiscalità generale opera esattamente l'idea che i ricchi paghino di più. Perché dobbiamo restringerci all'idea che questo debba accadere soltanto attraverso la fiscalità generale e non in altri modi? Ossia, per esempio, creando un fondo a livello locale, a livello nazionale, a livello regionale, questo si può discutere, in cui i privati contribuiscono specificamente per le scuole. E poi questo fondo viene tassato a seconda delle scuole o sussidiato a seconda delle scuole a cui va, in modo che non ci siano squilibri, gli squilibri e le ineguaglianze che teme Ippolito. E poi da ultimo rendiamoci conto che questa situazione, cioè di necessità di contributi privati alle scuole, perché sennò le scuole non vanno nemmeno avanti, non hanno nemmeno la carta e i pennarelli su cui lavorare, deriva dal fatto che lo Stato spende male, perché spende oltre il 95% del suo bilancio in salari e stipendi e spende in modo largamente distribuito in modo ineguale sul territorio, perché abbiamo scuole con troppi insegnanti e scuole in cui ne mancano, e i dati OCSE sono molto chiari, ne abbiamo già parlato in questa trasmissione, mi spiace annoiare ulteriormente gli ascoltatori. No, è bene ribadire i dati. I dati OCSE sono inequivocabili, anche dopo i tagli recenti del governo Berlusconi, la spesa per studente in Italia è maggiore che in altri paesi comparabili mediamente, e questo per un motivo molto semplice. I salari e stipendi sono bloccati, i posti di lavoro sono bloccati, ma i bambini sono sempre meno per il calo demografico. Quindi il punto non è che si spende poco. Quindi i soldi pro capite è male, e i soldi per gli studenti ci sono, gli soldi pro capite, ma il 95%, ci dice lei, vengono spesi per chi nella scuola lavora, cioè salari e stipendi, e non il 5% insomma, per chi evidentemente della scuola usufruisce, vale a dire tutti i nostri ragazzi e nostre ragazze. Rientriamo subito dopo il traffico con Tiziana Sallusti, che per cercare di capire insomma da tutto questo dibattito, vorrei capire anche se si è pentita o no di questa iniziativa che ha fatto, cioè questa provocazione, come ha detto, chiedere alla generosità delle persone di fornire dei PC, dei computer alla scuola, in questo caso il Mamiani di Roma. Allora, tanti messaggi, anche Giuliano ci scrive: fateci sapere quanto dei contributi alla scuola finisce in stipendi e quanto in didattica e materiale. Beh, ce l'ha detto adesso il professor Ichino, dati OCSE, 95% spese in salari, della spesa della scuola in salari e stipendi, e solo il restante 5% evidentemente per il resto. Professoressa Sallusti, vuole rispondere dal suo punto di vista di operatrice del settore, che ne pensa di quando il professor Ichino dice i soldi ci sono per la scuola, le spese pro capite, dice l'OCSE, per studente sono buone comparate ai livelli europei, è che si spende male, quindi non è che non ci siano soldi, è che sono distribuiti male. Probabilmente sarà vero, perché non metto in dubbio i dati che vengono riportati, io le parlo da persona che gestisce una scuola. A noi arrivano 9.000 euro l'anno dallo Stato per gestire la nostra scuola, un liceo con 45 classi, un liceo classico, scientifico e linguistico, d'accordo? Con questi 9.000 euro noi non possiamo neanche acquistare il noleggio delle macchine per fotocopiare i documenti. Ma come mai? Cioè, nel senso, in teoria, con la fiscalità generale, no, ma è chiaro, è interessante questo dato. Io le sto dicendo in maniera molto chiara, perché qui tutti parlano di massimi sistemi. No, ma è molto interessante, ma com'è possibile? La mattina vengo a scuola e devo far funzionare una macchina molto complessa. Ma com'è possibile con la fiscalità generale, eccetera, che arrivino solo 9.000 euro l'anno per far funzionare 45 classi? Io le assicuro che questo è lo standard di tutti i licei, delle scuole superiori. Abbiamo circa 1.000 alunni, tre tipi di liceo, ecco, quindi io le sto dando dei dati che sono certi, perché li gestisco, quindi no, questi non li metto in dubbio, posso, non posso dire bugie. Il mio stupore era per la situazione. Lo stupore, ecco, appunto, poi quindi i massimi sistemi poi si declinano così. E lei in prima mi ha provocato, mi ha detto se sono pentita di questa scelta. No, assolutamente no, perché la norma sulla dematerializzazione del 2012 obbliga tutte le scuole ad avere un registro elettronico. Quindi da qui in poi le scuole italiane manderanno pagelle in formato elettronico, i nostri registri non saranno più cartacei e le iscrizioni sono online. Tutto questo è bellissimo, ma se mancano le macchine... E invece voi le avete adesso, quindi per questo non è pentita, perché... le abbiamo, ma sono delle macchine non nuove, sono delle macchine che altrimenti sarebbero state rottamate, perché provengono da realtà dove è richiesta una prestazione informatica a livello nettamente superiore, quindi le avrebbero comunque dismesse, gettate, in che modo. Noi in un certo senso abbiamo pensato che nell'ottica di una collaborazione tra vari enti, ma anche tra pubblico e privato, tra pubblico e pubblico, perché noi poi abbiamo avuto anche delle proposte da altri enti pubblici, quindi all'interno di una sana ristrutturazione delle risorse, le 4R, no? Di cui si parlava già nel decreto Ronchi nel 97, abbiamo pensato tutte queste macchine che poi diventano obsolete per alcuni, ma sono ancora buone per altri, noi possiamo ancora utilizzarle. Fatto, e questa è la questione, Roberto Ippolito, hanno fatto al Mamiani di necessità virtù, cosa c'è di così rivoluzionario o di così inaccettabile in questo? Purtroppo di rivoluzionario non c'è niente, ed è questo il dramma, che non capiamo che ci stiamo indirizzando sempre più verso una minore considerazione dell'importanza dell'istruzione, dell'importanza dell'insegnamento. Questa è la questione generale. Non diamo la considerazione alla scuola, non diamo la considerazione agli insegnanti e pensiamo di cavarcela sempre con delle soluzioni alternative rispetto ai concetti generali. Certamente le tasse sono il bene essenziale di una comunità e l'equilibrio delle tasse, quindi la loro progressività, è un equilibrio fondamentale. Aggiungerci altro è estremamente pericoloso, equivoco. Sì. Attenzione, un ascoltatore ha detto prima: abbiamo ricevuto contributi dalla X catena di distribuzione e da un partito politico. Ci serve il partito politico, sottolinearlo, per un motivo: cerca consenso, così come la catena commerciale e la catena di distribuzione cerca clienti, finalità estranee alla scuola. Professor Ichino, colpisce anche lei o preoccupa anche lei che un partito politico possa in qualche modo destinare una parte dei proventi della festa per finanziare una scuola pubblica? Perché lo fa? Perché si sappia, immagino, in quella scuola i genitori sappiano che quel determinato partito politico ha dato il computer ai loro figli. Questo. Ma, francamente mi preoccupa solo se ha dei vincoli attaccati a questi soldi che arrivano. Non vedo quale sia il problema. Propaganda politica, nel senso è farsi notare, far sapere ai genitori, appunto, magari quando alle prossime elezioni bisogna andare a votare. Di più nella scuola. Ippolito chiede di investire di più nella scuola. Queste forme di cui abbiamo parlato oggi, nella trasmissione di oggi, sono tutti segnali di interesse a investire di più nella scuola, ma non attraverso lo Stato, che dimostra in modo evidente, lo ha detto la dirigente del liceo Mamiani, di non essere in grado di farlo, perché le sembra possibile che un liceo che ha un budget in cui solo 9.000 euro sono di spese vive, tutto il resto, che la professoressa non ha detto, ma sono stipendi e salari, ecco, come fa una scuola a funzionare? Lo Stato non è in grado di spendere, quindi bisogna assolutamente passare a un sistema in cui le scuole siano autonome e libere di gestirsi le risorse pubbliche, ma in modo indipendente e autogestito rispetto a quanto decide lo Stato. E a quel punto ci sarà la scuola di Ippolito che non avrà fondi privati, e ce ne saranno altre che ce le avranno, e a questo punto sarà l'autonomia democratica dei cittadini a decidere come meglio gestire una scuola. Ripeto, se il problema è un problema di disuguaglianza, lo si risolve molto facilmente tassando le scuole che hanno contributi più alti a favore di quelle che ne hanno di meno, ma non vedo dove sia il problema. Mi sembra che questo sia proprio il segnale di una società che vuole investire di più, ma spendere spendendo bene, non male, come fa lo Stato. Allora, noi ci dobbiamo fermare anche per oggi, ovviamente il tema è talmente caldo, come sentite, periodicamente ci torniamo, quindi per il momento ringrazio tutti, Tiziana Sallusti, dirigente scolastico al liceo Mamiani di Roma, Andrea Ichino, il professor Andrea Ichino, così come ringrazio Roberto Ippolito, di cui voglio ricordare appunto ancora una volta il libro edito da Chiare Lettere, vale a dire Ignoranti, lo trovate così, è inconfondibile il titolo, caro Ippolito, lo trovate ovviamente in libreria. Grazie a tutti, potete riascoltare sul sito radio24.it la puntata di oggi. I ringraziamenti sono come sempre a Miriam Lucchetti, Alessandro Marco Tullio, Elisabetta Fusconi, Anita Panizza in redazione e poi il nostro alpino Peter Bescapè. O seguiteci se volete anche su Twitter, 24 mattino è il profilo della trasmissione, il mio profilo è Alino Milan, abbiamo messo anche una bella foto oggi, il nostro selfie, io, Miriam Lucchetti e l'alpino Peter Bescapè, ci siamo fatti il selfie. Cos'è il selfie? E andate a curiosare sul sito o su Facebook. A domani 6:30. Il nostro Parlamento, la Camera che si accapiglia sulla riforma costituzionale e il Senato che si accapiglia sulla decadenza di Berlusconi, dovrebbero stare su Marte, perché non hanno la più pallida idea di che cosa sia la vita dei cittadini. E quando dicono la stabilità del governo per il popolo, non sanno di quale popolo stanno parlando. Dovrebbero andare tutti una settimana a lavorare in un call center con un contratto CocoPro e il capo che gli cronometra le telefonate, e dovrebbero mandare tutti i loro figli alla scuola pubblica ad accapigliarsi con la preside perché non c'è la lavagna in classe, perché alla prima riunione ci dicono, sapete cosa ci dicono? Portate la carta igienica. Questo è il paese reale e tutto il resto, perdonatemi, sono fandonie.